E se dopo questa notte mi trovi morto in mezzo a un prato, sarò io che l'ho deciso, sarò io che l'ho cercato. In te ci ho creduto sempre, anche dopo che è finita. Stretti i pugni e duro il muso, tifo Inter da una vita. Te lo dico sottovoce, non so amarti con il sole. Mi dispiace, ma davvero ti amo solo quando piove, musica iene. Perché noi siamo fuori dalla line, fuori dalla line, fuori dalla line. Comunque vada, io non piango mai. Fuori dalla line, fuori dalla line, fuori dalla line. E vaffanculo te che te ne vai. La vita settembre, forse alla fine come un orso ti lascia in pace solamente se ti sai fingere morto. Ma cosa vogliono saperne loro di cos'è la felicità, che non ascoltano Battiste, non mettono la cipolla nel kebab. E allora trovami un bel prato per morire degnamente, come i gatti che si appartano lontano dalla gente. Non voglio più sentire niente, neanche la musica, yeah, ah, ah. Perché noi siamo fuori dalla life, fuori dalla life, fuori dalla life. Comunque vada, io non piango mai. Fuori dalla life, fuori dalla life, fuori dalla life. Ma ci tengo che si sappia che ho vissuto. Sulla mia tomba scrivete belli i primi e poi